Letture di Radio 24. A cosa serve la storia dell'arte? È una disciplina destinata a rimanere elitaria o deve invece cercare di avvicinarsi alle masse, magari attraverso compromessi o scoop sensazionalistici? Sono domande alle quali ha cercato di rispondere Frédéric Mitterrand, ministro della cultura francese, nel discorso pronunciato in occasione dell'inaugurazione del Festival de l'Histoire de l'Art di Fontainebleau. La gente fa la coda per vedere le grandi mostre, aderisce con entusiasmo alle proposte di nuovi musei ed è sempre più in cerca di spiegazioni e di senso. Prima manifestazione nel suo genere in Europa, questo festival fungerà da cassa di risonanza per le ricerche e i lavori più innovativi nel campo della storia dell'arte. È aperto a qualsiasi scuola, problematica o discorso che si occupi dell'oggetto visivo in Francia e in Europa. La sua ambizione è quella di coinvolgere un pubblico molto vasto. Questo festival vuole avvicinare i mestieri che oggi muovono la storia dell'arte. Universitari, conservatori, galleristi, oltre a voler far dialogare le arti con gli artisti. A lungo minata da conflitti e opposizioni, la storia dell'arte come disciplina trova in questo forum i mezzi per unirsi, assemblarsi, confrontarsi con le sfide di un mondo che ha assunto l'immagine, compresa l'immagine del sé, a feticcio. Oggi la storia dell'arte è in grado di dare un senso al divenire collettivo, di ridare prospettiva al caos del mondo, o più precisamente al caos nato dalla moltiplicazione di simulacri di ogni genere. Nell'epoca dell'infinita riproducibilità dell'immagine, la storia dell'arte può contribuire a dare coerenza, può essere uno strumento per rendere più intellegibile il nostro tempo. In altre parole, questa manifestazione si pone l'ambizione di riconciliare sensato e sensibile, di valorizzare quello che i nostri amici italiani chiamano il saper vedere, di conquistare le opere che non parlano di se stesse. Saper conciliare l'emozione e l'intellegibile, il visibile e il nascosto, la percezione e la riflessione. È questa la sfida di una politica di educazione artistica ambiziosa. Come diceva Daniela Ras, la storia dell'arte mostra ciò che non si vede, fa vedere ciò che lo spettatore non ha visto. La storia dell'arte può anche permettere di abbattere i pregiudizi e i timori di coloro che non osano varcare le porte dei templi della cultura. L'educazione dello sguardo, in un mondo caratterizzato da un vero e proprio bombardamento di immagini senza ordine, intellegibilità o gerarchia, più che un'esigenza, è una necessità. Oggi più che ieri, la strada per un'educazione alla cultura richiede di far comprendere la costruzione di un'immagine, cogliere i risvolti sociali di un'opera, capire che l'immagine non è la realtà, ma la costruzione a volte erudita di un discorso. L'arte è anche un apprendimento alla conquista di se stessi e del tempo. È abbozzo, costruzione, realizzazione. Tutti i passaggi che un pubblico immerso nel regno dell'effimero e dell'evanescente non può trascurare. Non dimentichiamoci mai che la storia dell'arte ha una responsabilità nei confronti del passato, dei monumenti, dei siti archeologici, dei quadri da conservare o da acquisire. Conservare e trasmettere, questa doppia missione della storia dell'arte ci fa capire il suo grande ruolo sociale. La ricchezza della storia dell'arte si nutre di tanti apporti, primo fra tutti la storia dell'oggetto visivo, della sua materialità, ma anche letteratura, filosofia, antropologia o psicanalisi. Questa pluralità di apporti le permette di inserirsi nel dibattito pubblico, perché la storia dell'arte deve favorire una conoscenza, una presa di coscienza storica che cambi le prospettive, spesso ingenue, del presente. Alla storia dell'arte si dedicano persone impegnate e appassionate che sacrificano molto per il desiderio di capire, ma anche per la passione di trasmettere. Universitari e conservatori del patrimonio mettono l'anima nella ricerca, preoccupandosi sempre di far arrivare il risultato del loro lavoro ai diversi destinatari. In questi 2 anni da ministro ho incontrato uomini e donne straordinari, eroi veri, testimoni viventi della cultura, autentici servitori della sua pubblica comunicazione. Scegliere Fontainebleau come sede per un festival di storia dell'arte non è casuale. È qui che il Rinascimento italiano ha abbracciato l'arte francese. È qui che artisti di primo ordine hanno soggiornato su invito di Francesco I, ma anche di Napoleone. È fra queste mura che, giunto da Roma, Nicolas Poussin ha trascorso qualche giorno prima di recarsi a Parigi, alla corte di Luigi XIII. Questa città e questo castello rappresentano un crocevia europeo, il luogo di incontri artistici esemplari, dal Primaticcio a Coypelle. Il castello di Fontainebleau ha un rapporto singolare con il tempo e con la storia. passeggiando per Roma, città millenaria, si possono apprezzare le vestigia artistiche del passato, costruito a tappe successive, un periodo sull'altro, in una specie di mille foglie dagli strati compositi. A Fontainebleau gli strati del tempo sono verticali, ogni momento della storia si rivela accanto a un altro. I segni del tempo rendono visibili le sequenze della storia, dei modi e delle rappresentazioni. Non c'era luogo più appropriato per evocare la storia dell'arte francese e al tempo stesso quella delle influenze e delle contaminazioni artistiche. Il paese ospite è l'Italia, che quest'anno commemora i 150 anni della sua unità, raggiunta con il sostegno diplomatico e militare di Napoleone III al Regno di Piemonte e Sardegna e alla Monarchia di Savoia. Patria delle arti, degli artisti e degli storici dell'arte, è grazie al suo patrimonio di inestimabile ricchezza che l'Italia ha saputo trascendere le sue divisioni e costruirsi un'identità nazionale modellata sulla cultura. È grazie alla forza delle convinzioni dei suoi storici dell'arte, di coloro che hanno saputo riflettere sul suo patrimonio, che l'Italia ha saputo distinguersi nella Repubblica dei Saperi. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal discorso pronunciato dal ministro della Cultura, Frédéric Mitterrand, in occasione dell'inaugurazione del Festival de l'Histoire de l'Art di Fontainebleau, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Dopo le recenti elezioni amministrative, i due parlamentari Piero Fassino e Bruno Tabacci, eletti rispettivamente sindaco di Torino e assessore al bilancio di Milano, sono stati al centro di polemiche perché percepivano un doppio stipendio. Viste le pressioni, hanno deciso di rinunciare ad uno dei due stipendi, quello più basso, naturalmente. Di soldi, come di sesso, non bisognerebbe mai parlare. Ma poiché non si parla che di sesso, rompiamo anche l'altro tabù per affrontare il caso dei parlamentari appena eletti sindaci o nominati assessori. Mi riferisco al torinese Fassino e al milanese Tabacci. Da giorni si invocano le loro dimissioni da deputati. Fassino ha già annunciato che le darà a breve, anche se a malincuore, perché è importante portare a Roma la voce del Nord. Si consoli, la portano già in molti e non sempre a proposito. Tabacci invece insiste e tratta sull'orario. Starei a Roma solo il martedì e il mercoledì. Se la mole di lavoro è quella, allora ci si chiede a cosa servono 1000 persone impiegate a tempo pieno in Parlamento. Basterebbero un paio di sessioni annuali, con distacco sindacale dai luoghi di lavoro. Ma veniamo al succo. Il sindaco di una grande città guadagna un terzo dello stipendio di un deputato. L'assessore un quarto. Fassino e Tabacci saranno sicuramente superiori a queste miserie, mentre io sarei piuttosto seccato di guadagnare meno della metà di Scilipoti, lavorando il decuplo. In un afflato di generosità, assai lodato da Pisapia, ma forse non altrettanto dai suoi elettori, Tabacci si è detto disposto a rinunciare al compenso di assessore, cioè al più basso dei due. Ma io ho un'idea migliore: abbassare lo stipendio degli onorevoli al livello degli amministratori locali. Sarebbe un modo per facilitare la scelta dolorosa di Fassino e Tabacci, facendo un favore a loro e anche a noi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Massimo Gramellini, Uno stipendio onorevole, dalla Stampa del 15 giugno